Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono quasi le 17.10. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. I temi di cui ci occuperemo oggi nel nostro programma, chiaramente parleremo della legge di stabilità che abbiamo già anticipato ieri, almeno in gran parte dei contenuti, visto che circolava una bozza che poi peraltro per parte è stata anche smentita nei contenuti dal Ministero dell'Economia. Il Consiglio dei Ministri in ogni caso la vara proprio in questi minuti, la commenteremo nella seconda parte della trasmissione, quali sono le notizie più importanti relativamente a questo provvedimento. Arriva la service tax, ne abbiamo parlato ieri, si chiamerà Trise, arriva un rifinanziamento per la cassa integrazione in deroga, novità per la tassazione sulle rendite finanziarie. In realtà su questo punto c'è ancora un po' di mistero, vedremo se ufficialmente poi il governo Letta varerà anche questa manovra di inasprimento della tassazione appunto sul risparmio. Il cuneo fiscale si alleggerisce, ma non quanto avrebbe voluto il mondo imprenditoriale italiano. Viene previsto un allentamento del patto di stabilità interno per dare respiro ai comuni, c'è il prelievo sulle pensioni d'oro. Noi ci concentreremo però sui tagli previsti da questa manovra, tagli previsti per la sanità, nella spesa farmaceutica ed ospedaliera e nel pubblico impiego. Che qualità hanno questi tagli? Ne parleremo più tardi con Dino Pesole del Sole 24 Ore. Le borse europee stamattina un po' più deboli, poi si sono rafforzate nel corso del pomeriggio in scia all'ottimismo per un accordo sull'innalzamento del debito americano entro giovedì, in modo da evitare il default del paese. Oggi al Congresso i repubblicani hanno fatto sapere che voteranno un proprio provvedimento per alzare il tetto del debito e finanziare le attività federali in modo da garantire i finanziamenti ai livelli attuali almeno fino al 15 gennaio e aumentare il livello del debito fino al 7 febbraio. Cercheremo di capire che implicazioni hanno queste decisioni tra poco con Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Per quello che riguarda la borsa, Milano sta guadagnando in questo momento lo 0,22%. Noi parleremo anche di un caso di borsa che non rappresenta per la verità solo questo per la finanza italiana. Parleremo delle vicende interne del RCS, il gruppo Rizzoli, Corriere della Sera. Cosa succede in uno dei salotti buoni della finanza italiana? Succede che dopo 30 anni si scioglie il patto di sindacato perché alcuni soci storici vogliono cedere questa partecipazione che non è più ritenuta strategica. Sono Mediobanca, Fonsai e Generali. Allora, quali prospettive si aprono per questo grande gruppo? Cosa succede? Quali saranno i nuovi equilibri? Chiaramente, per coerenza, anche alla luce del fatto che praticamente nelle ultime settimane ce ne siamo occupati quasi tutti i giorni, faremo il punto su Alitalia, perché lo avete sentito anche nel giornale radio. Stanotte l'assemblea dei soci ha deliberato questo aumento di capitale da 300 milioni di euro massimi. I soci a questo punto avranno 30 giorni di tempo a partire da domani per sottoscrivere le azioni di nuova emissione. Cosa farà Air France, KLM ancora non è dato sapere, è un mistero. Poste Italiane garantiranno comunque la sottoscrizione di 75 milioni dell'aumento di capitale rimasti eventualmente inoptati, e guarda caso è proprio la cifra che farebbe mancare Air France. E allora, per commentare con noi tutti i temi del giorno, come sapete avete la consueta modalità, è quella di scriverci dei messaggi al 349 238 6666. Adesso le notizie in breve. Oro e petrolio in apertura come sempre. Per quello che riguarda l'oro, oggi viaggiava $1,273 l'oncia, calo anche oggi per quello che riguarda le quotazioni sui mercati internazionali. Relativamente al petrolio, in calo anche questo, a New York oggi aperto a $101,54 al barile. Tema che avevamo preannunciato ieri, oggi da Lussemburgo abbiamo avuto il via libero definitivo da parte dell'Ecofin alla supervisione unica delle banche europee da parte della Banca Centrale Europea. Lo ha annunciato proprio la presidenza lituana dell'Unione Europea. La supervisione unica partirà da novembre 2014 e sarà effettuata su 130 banche cosiddette sistemiche. Andiamo in Germania, dove oggi è stato diffuso L'indice ZEV, che misura la fiducia degli investitori sulla base delle aspettative sui prossimi sei mesi. Questo indicatore è salito per il terzo mese di fila. E oggi la statistica appunto mostrava questa cifra, 52,8 punti ad ottobre, toccando i massimi da aprile 2010. Lo ZEV segnala che la ripresa tiene, nonostante la turbolenza sui mercati, innescata proprio da quel tema che approfondiremo tra poco, cioè dal rischio default degli Stati Uniti. Alle 17 di oggi, quindi la riunione è già iniziata, il Consiglio dei Ministri è pronto a dare il via libera alla legge di stabilità 2014 che dovrà poi essere trasmessa a Bruxelles per l'ok, via libera alla vidimazione della Commissione Europea. Una manovra che ha un valore complessivo di circa 12 miliardi. Ribadiamo un po' gli interventi che sono previsti, il taglio al cuneo fiscale, al momento sono previsti 2 miliardi e mezzo di risorse appunto per questo provvedimento, ma come sapete Confindustria chiede altro, si punta ad alzare la dote. Questi soldi saranno divisi a metà tra imprese e lavoratori. I 15 milioni di dipendenti coinvolti dovrebbero ottenere un beneficio compreso fra i 100 e i 200 euro l'anno, e so già che qua scateneremo anche oggi, come è successo ieri, tutte le vostre prese di posizione molto negative. Le imprese invece usufruiranno di sconti IRAP da 600 euro netti per ogni assunto a tempo indeterminato. È previsto un allentamento del patto di stabilità da 1 miliardo di euro, 600 milioni andranno al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per il prossimo anno. La nuova imposta Trise sostituisce la TARES e si dividerà in TARI sui rifiuti e TASI sulle prestazioni. Sul fronte delle coperture, stando a quanto risulta dall'ultima bozza circolata, sarebbe contemplato anche un aumento dal 20 al 22% della tassazione sulle rendite finanziarie e un aumento dell'imposta di bollo per le comunicazioni sui prodotti finanziari. I tagli alla sanità da 2,6 miliardi di euro e poi viene esteso a tutto il 2014 il blocco dei contratti nel pubblico impiego e viene previsto anche un taglio del 10% agli straordinari. Infine è previsto il contributo progressivo sulle pensioni dai 100.000 euro l'anno in su. Non date retta a troppe indiscrezioni, tutte foriere di cattive notizie che hanno riempito oggi i giornali. La legge di stabilità la faremo oggi pomeriggio, questa è stata in mattinata la promessa di Enrico Letta. Non date retta alle tante troppe indiscrezioni, tutte foriere di cattive notizie che hanno riempito i giornali di oggi. Punto. La legge di stabilità la faremo oggi pomeriggio e oggi pomeriggio discuteremo di questo, uscirà, gli italiani la conosceranno. Lieve frenata a settembre nella caduta dei prestiti bancari a famiglie ed imprese, lo dice il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, secondo il quale sono scesi rispettivamente i prestiti bancari a famiglie del 2,9% contro il 3,5% di agosto, anzi complessivamente questo aggregato. È presto per dire se si tratta di un'inversione di tendenza, ha spiegato il responsabile dell'ufficio studi dell'ABI, Gianfranco Torriero. Bisognerà vedere l'evoluzione dei prossimi mesi. L'ammontare dei prestiti, 1.864 miliardi di euro complessivi, resta comunque nettamente superiore all'ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.728 miliardi di euro. Le notizie di oggi di Alitalia, sulle quali poi ci divertiremo chiaramente commentandole insieme al nostro Gianni Dragoni. Abbiamo avuto il via libera all'aumento di capitale da 300 milioni di euro in questa maratona notturna dell'assemblea degli azionisti. Cosa è successo dopo questo provvedimento, dopo questa decisione? Che i consiglieri di Alitalia, in previsione del fatto che ci sarà un possibile mutamento degli assetti proprietari conseguentemente all'aumento di capitale, hanno manifestato l'intenzione di rassegnare le loro dimissioni, che hanno detto saranno irrevocabili, dalla carica, con effetto dalla data dell'assemblea che sarà convocata subito dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale. E sapete che l'ingresso nel capitale da parte di Poste Italiane ha suscitato vive proteste non solo nel mondo della politica italiana ma anche nel mondo della finanza internazionale, perché dall'Europa ci guardano a questo punto molto severamente. Ieri la vicenda di Alitalia è stata al centro di editoriali pesantissimi da parte del Wall Street Journal, del Financial Times e chiaramente, visto che era in Lussemburgo con l'Ecofin, il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni ha anche dovuto rispondere a queste critiche. L'accusa di protezionismo su Alitalia è frettolosa, ha detto. L'obiettivo indicato anche dal Premier è trovare una forma di partnership internazionale, perché l'idea di Alitalia che vive da sola stand alone, che è la scelta fatta in passato, è ora completamente cambiata, così il ministro Saccomanni. Ieri era stata British Airways appunto a protestare vivamente per la questione dell'ingresso di Poste Italiane in Alitalia, perché ha detto è una forma di aiuto di Stato, e questa mattina su questa vicenda dalla Germania è stata interpellata anche Lufthansa ed è stato chiesto alla compagnia tedesca se fosse intenzionata anch'essa a protestare formalmente con la Commissione Europea per i presunti aiuti di Stato relativi all'aumento di capitale appunto di Alitalia. Secondo quanto ha spiegato l'agenzia ANSA, il portavoce per le questioni europee della compagnia tedesca Ricken, al momento non si ha intenzione di procedere secondo questa direzione. In futuro però, quando sarà più chiara la struttura dell'aumento, non è escluso che Lufthansa faccia sentire la propria voce. Da Telecom Italia a Finmeccanica fino alla veterana Fiat, le aziende italiane sono alle prese sempre di più con il rating junk, cioè spazzatura, l'equivalente di un investimento speculativo che rende più difficile finanziarsi sui mercati, aumenta la dipendenza da un sistema bancario che invece deve diminuire i prestiti e in definitiva mette a rischio investimenti e ripresa. Per il secondo giorno ci guadagniamo questo giudizio da parte del Wall Street Journal, anzi il terzo commento in pochi giorni. Il terzo commento che in pochi giorni appunto prende di mira lo stato di salute del settore privato italiano, che sottolinea la presenza già limitata delle aziende italiane sugli indici dei corporate bond non speculativi. Tutti questi fattori, dice il Wall Street Journal, mettono le aziende italiane in una situazione di svantaggio nel finanziarsi rispetto ai loro competitor in Nord Europa. C'è anche da dire che i giudizi delle agenzie di rating negli ultimi anni hanno avuto una reputazione traballante, perché chiaramente sono stati anche, come sapete, le società, le tre sorelle Standard & Poor's, Moody's e Fitch, molto spesso anche giudicate poco tempestive nei loro interventi, hanno anche loro sbagliato appunto qualche giudizio, per cui prendiamo con le pinze questo commento così negativo da parte del Wall Street Journal e direi che adesso possiamo andare anche al primo approfondimento di oggi. Allora, sembra sempre più vicino, almeno a quanto pare le borse europee ci credono, oggi Wall Street si prende una pausa, sembra sempre più vicino un accordo al Senato per porre fine alla paralisi del governo federale e alzare così il tetto al debito pubblico. Sono trapelate le prime indicazioni di un'intesa fra repubblicani e democratici che potrebbe essere un'intesa in tre punti sul fronte del cosiddetto shutdown iniziato il 1 ottobre a causa della mancata approvazione di una legge di bilancio per l'anno fiscale 2014. Il governo tornerebbe alla normalità grazie a fondi per 986 miliardi di dollari l'anno garantiti fino al 15 gennaio prossimo, il giorno in cui i tagli automatici alla spesa da 21 miliardi entreranno in vigore dopo quelli scattati già il 1 marzo scorso. Il tetto al debito, ora 16.700 miliardi di dollari, verrebbe alzato fino a metà febbraio, dando al Dipartimento del Tesoro il tempo per ricorrere a misure straordinarie per posticipare o speriamo cancellare del tutto un potenziale default. I legislatori dovrebbero concludere i negoziati per una soluzione di lungo termine sul bilancio entro il 13 dicembre. Facciamo un punto questa sera con il nostro Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, al quale però chiedo di partire, Mario, dalle due notizie più importanti che ho letto oggi sui giornali. Il primo è che gli americani spenderanno per vestiti di Halloween 2,5 miliardi di dollari, perché su questa festività negli Stati Uniti non si scherza. La seconda è che lo shutdown mette in crisi anche la First Lady Michelle Obama, perché non ha giardinieri per curare l'angolo nel giardino della Casa Bianca. Sono problemi grossi. Partiamo dallo shutdown, perché non è soltanto il problema del giardiniere della signora Obama, ma è un problema che ci tocca da vicino, perché come sai il presidente del Consiglio Enrico Letta, arriva domani a Washington e doveva andare come uno dei suoi primi appuntamenti a fare una visita alla National Gallery, dove doveva essere esposto nel contesto dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti anche un'importante opera d'arte italiana. Ebbene, il problema è che la National Gallery è chiusa, uh-huh, è chiusa per lo shutdown, e quindi questa visita quasi sicuramente non si potrà fare. Si dovrà rinunciare ai cerimoniali di rito, sì. Sono di vario genere, insomma, quindi questa ci tocca anche più da vicino. Su Halloween, meno male che qualcuno spende, perché la spesa poi alimenta l'economia, come sai l'economia americana per il 75% dipende dai consumi. Halloween è un consumo, e credo che se da noi ci fossero condizioni meno tight, meno strette dal punto di vista fiscale e ci fossero meno regole, forse come gli americani per varie feste potremmo anche noi permetterci di spendere non 2 miliardi di dollari ma direi un quinto, perché facendo riferimento a popolazione e PIL noi dovremmo essere in grado di spendere circa, diciamo, 200 miliardi di euro. Dici un po' però, insomma, la politica a che punto è su questo dibattito molto, molto forte? Ma guarda, siamo ormai, come tu hai detto direi tutti i punti chiave che riguardano il dibattito politico di questo momento, li hai già enunciati. L'accordo di massima al Senato dovrebbe arrivare entro breve, è un accordo che consente di riaprire il governo da una parte, e quindi chissà che non lo facciano in tempo per consentire anche a Letta di andare a visitare la National Gallery, e dall'altra di superare quello che era il problema più serio, e cioè il tetto sul debito. Attenzione, perché sono comunque degli accordi a termine, come tu stessa hai detto, arriviamo fino a gennaio per l'apertura del governo e fino a febbraio per il tetto sul debito. Nel frattempo le parti dovrebbero mettersi a negoziare per tagliare e ridurre alcune delle spese sociali, e i repubblicani torneranno all'attacco sull'Obamacare, quindi si tratterà di vedere se poi fra 3 mesi non ci troveremo punto a capo, oppure se veramente non si riuscirà a trovare un accordo di qualche genere. Dal punto di vista tecnico non basta l'accordo al Senato, perché poi ci vuole un voto alla Camera. La Camera resiste, la mia impressione è che se la Camera a sua volta non troverà, come dire, un'idea, una proposta per non farsi soffiare dal Senato l'idea di aver salvato il Paese, e quello che succederà è che ci sarà una maggioranza trasversale di democratici e repubblicani, già come capitò nel dicembre dell'anno scorso, che consentirà a questa legge di passare, in fondo come era una volta la tradizione del bipartisanship. Nei momenti di difficoltà bisogna unirsi. Mario, volevo anche spiegare magari ai nostri ascoltatori, sicuramente nelle puntate precedenti, passate, Sebastiano Barisoni lo ha fatto, ma ricordiamo un po' che cosa implicherebbe arrivare senza soluzione, senza accordo al 17 ottobre, cioè a dopodomani, che cosa implicherebbe appunto questa non autorizzazione all'innalzamento del tetto del debito. Significa che appunto ogni anno gli Stati Uniti producono titoli di Stato, li mettono sul mercato, praticamente poi di questi, chiaramente, una volta che arrivano a scadenza devono essere rifinanziati. In questo momento non c'è un accordo sul fatto di poter emettere nuova carta da far circolare sul mercato, e quindi non possono essere rifinanziate le scadenze. Nella sostanza è questo il punto? Beh sì, esattamente. Il governo americano andrebbe in default, cioè l'americano si indebita, ci sono delle scadenze, ci si ripresenta sul mercato, è un credito straordinario perché continua a prendere dei tassi attorno al 2-3%, insomma tassi straordinariamente vantaggiosi, e quindi all'America conviene. Nel momento in cui non è autorizzata burocraticamente a andarsi a indebitare per coprire delle spese, tra l'altro che sono già state autorizzate dal Congresso, ecco che è molto semplice: non arrivano i soldi in cassa. Non arrivando i soldi in cassa, non ci sono soldi per poter rimborsare il debito, per poter rinnovare il debito, per poter pagare anche gli interessi sul debito. Quindi il problema è gravissimo, si tratterebbe di andare in default per gli Stati Uniti d'America, che sono il credito più solido al mondo, il punto di riferimento, il rifugio per tutti, per la Cina, per il Giappone, come sappiamo, e dunque sarebbe un disastro finanziario, economico e, aggiungo, geopolitico. Esatto, perché dalla Cina non dicono niente su tutto questo? No, dalla Cina ci sono state già delle forti lamentele e delle minacce, addirittura la Cina ne ha approfittato dal punto di vista politico per dire: qui siamo troppo dipendenti dagli Stati Uniti, ci rendiamo conto che gli Stati Uniti pensano solo a loro stessi, dobbiamo uscire da questa situazione americocentrica, e quindi dobbiamo cambiare radicalmente alcune situazioni di fondo. Quindi il danno di cui gli Stati Uniti, o di cui alcuni dei politici del Tea Party, non si rendono conto, e il danno politico, il danno d'immagine che gli Stati Uniti rischiano di pagare. Dal mio punto di vista, poi sono ottimista, si fanno sempre molti sensazionalismi attorno a queste vicende, alla fine un braccio di ferro interno, l'America è solida, l'economia cresce, hanno ritrovato la loro stabilità finanziaria, le banche stanno bene, i tassi di interesse sono bassi, il settore immobiliare si è ripreso. questo poi è quello che conta, e devo dire è per questo che alla fine le borse non hanno mai mostrato preoccupazione vera in reazione a quello che era una minaccia che certo poteva essere devastante. Un'ultima considerazione, Mario, poi ti lasciamo, riprendo un po' i concetti che tu questa mattina hai espresso anche sulle pagine del Sole 24 Ore, mettendo in relazione il dibattito appunto in congresso sul tetto del debito e anche l'atteggiamento prossimo da parte della Federal Reserve, che prima o poi dovrà cominciare a ritirare lo stimolo monetario che attualmente garantisce all'economia. Visto che al momento il congresso intende prendere delle soluzioni di breve e medio termine, la Federal Reserve che tipo di atteggiamento potrebbe avere di fronte a questo? Infatti è proprio questo il punto, che la Federal Reserve, e qui parliamo del problema del bilancio e non di quello del tetto sul debito, il bilancio rischia di rallentare il tasso di crescita americano. Non solo 800.000 persone per 10 giorni e poi altre 400.000 per fino adesso sono rimaste a casa senza stipendio, quindi immagina le difficoltà di queste persone, ma varie aziende, cito la United Technologies, tanto per dirne una, ha sospeso dal lavoro 4.000 dipendenti perché non aveva più la possibilità di consegnare i motori al Pentagono, faceva delle forniture militari al Pentagono. Ecco, moltiplica il caso United Technologies per 1.000 aziende americane ed ecco che c'è un problema sul fronte occupazione che è quello che preoccupa di più la Federal Reserve. Secondo me, quando nell'ultima riunione, i primi di settembre, la Fed ha deciso di lasciare invariata la sua politica d'acquisto, lo ha fatto anche perché sapeva che poteva esserci questo rischio e dunque valuterà sulla base della lettura dei dati statistici, i quali peraltro non sono arrivati perché per lo shutdown, esatto, non abbiamo avuto molti di questi dati e anche la Fed si trova ad operare un po' nell'ombra e dunque in genere il consiglio è nel dubbio astienti, quindi io non sarei sorpreso che la Fed a ottobre decidesse di continuare la sua politica invariata rimandando poi a dicembre ogni decisione. Però la Fed è imprevedibile, lo abbiamo visto, per cui chissà, magari se i mercati si riprendono, se c'è una ventata d'ottimismo, può anche decidere di farlo per approfittare della situazione e come dire inserirsi in un momento già particolare del mercato. Però sicuramente questa è una variabile che oggi la Federal Reserve tiene ben presente nel momento in cui deve decidere di fare il tapering e dunque di ridurre quelle operazioni di acquisto sul mercato che aggiungono liquidità, delle politiche accomodanti, 85 miliardi di dollari al mese, che consentono di mantenere i tassi a breve molto bassi. Diversa è la politica sui tassi, su quello la Fed ha già annunciato che i tassi di interesse resteranno molto bassi fino al 2015. L'ultima riflessione di 30 secondi, Mario, next step, adesso che cosa succede? Qual è la notizia della giornata che ci aspettiamo? Scusa, non ti ho seguito. La notizia della giornata che aspettiamo per poterci rassicurare tutti sul fatto che un accordo verrà trovato, da dove dovrà arrivare, dal Senato, dalla Camera? Allora la notizia che stiamo aspettando riguarda l'accordo al Senato. Nel momento in cui il Senato avrà una proposta di legge definita, l'idea è che la porti al voto, magari già nel pomeriggio, forse stasera, forse domani mattina, e nel momento in cui è al voto ci si aspetta che sarà passata con una maggioranza molto ampia, forse 80-90 voti su 100. Questo creerà una pressione molto forte sulla Camera dei Deputati, che è quella che resiste il passaggio di una legge che lasci le cose invariate, ma consenta allo stesso tempo di riaprire il governo, superare il tetto sul debito, eccetera, eccetera. E dunque, come ti dicevo, dovremo vedere, quel progetto di legge arriverà alla Camera e a quel punto la Camera probabilmente lo voterà con una maggioranza trasversale. Io sono ottimista, alla fine la questione si risolverà naturalmente da qui a gennaio, a febbraio. Non siamo neanche in grado lontanamente di immaginare quali potrebbero essere le conseguenze mondiali di una devastante appunto decisione del genere, cioè di lasciare andare il default statunitense. Grazie a Mario Platero da New York, buona serata Mario. Hai partecipato ieri al Columbus Day, alla celebrazione sulla Fifth Avenue? Certo, grande manifestazione, anche oggi la trasmissione di America 24 l'abbiamo dedicata proprio a quello questo. E devo dire è stato molto molto commovente vedere questa gran quantità di italo-americani e tra l'altro ieri sera c'è stata una cena al World of Astoria per celebrare coloro che hanno sostenuto questa cosa, c'erano 800 persone, pensa, che celebravano questo Columbus Day, c'era Joe Perella, grande banchiere americano che è stato il marshal della parata e devo dire sono poi andato anche più in piccolo a un altro party, ma sicuramente più divertente per noi a Italy c'era Oscar Farinetti, sì, con questa sua straordinaria attività, e c'erano, pensa che hanno suonato e cantato insieme, Jovanotti e Renzo Arbore. E sono quasi le 17.40 ancora. Buonasera da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia per la giornata economico-finanziaria. Adesso è proprio il momento di concentrarci su quella parte della giornata strettamente finanziaria. Vi raccontiamo cosa è successo oggi in borsa. Allora, Wall Street sta migliorando, l'Europa questa mattina prudente ma comunque positiva si è proprio rafforzata nella seconda parte della seduta. A Francoforte sta mettendo a segno un rialzo vicino alla chiusura di quasi un punto percentuale, per Parigi più 0,78, Londra più 0,67, anche Milano, che stamattina è stata proprio la più indecisa, sul finale scatta e guadagna lo 0,43%. Livia Zancaner, Radio Code, Il Sole 24 Ore, buonasera. Allora, abbiamo ancora una volta oggi alcuni titoli del settore bancario in evidenza. Prima di andare a raccontare le singole storie, un quadro generale, merito dello spread, merito del possibile accordo americano che eviti il default. Cosa è successo oggi? Cosa è successo? Perché quest'aria così positiva? Sì, allora, lo spread sicuramente è sceso verso quota 230 punti base, quindi di questo hanno beneficiato i titoli bancari a Piazza Affari. Dall'altra parte vi è ottimismo per un accordo sull'innalzamento del debito americano entro giovedì, in modo da evitare il cosiddetto default tecnico del paese. Restano però le incognite sull'intesa tra democratici e repubblicani, tant'è che la Casa Bianca pochi minuti fa ha rigettato la proposta arrivata proprio dai repubblicani. Per questo vediamo che a Wall Street prevale comunque la cautela, con il Dow Jones che cede lo 0,26% in questo momento, e quindi anche i listini europei hanno chiuso in territorio positivo ma leggermente sotto i massimi toccati durante la seduta. C'è da segnalare che l'euro però è sceso sul dollaro, in questo momento quota 1,3495, quindi sceso sotto 1,35. Andiamo alle singole storie di Piazza Affari, cominciando dalle banche che oggi sono andate particolarmente bene. UbiBanca più 4,03% e la Popolare dell'Emilia Romagna più 3%. Notizie specifiche o effetto spread? Notizie specifiche non ce ne sono, in realtà le banche, soprattutto UBI, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e il Banco Popolare, hanno in atto un rally che dura dal 30 settembre, cioè nella settimana in cui si è votata la fiducia ma il governo Letta. Secondo, quindi continua questo rally grazie anche allo spread che è in continuo calo, anche se alcuni analisti fanno notare che forse sarebbe il caso di iniziare a prendere profitto proprio su queste banche che hanno guadagnato così tanto. Vediamo poi oggi che il Monte dei Paschi ha chiuso invece in controtendenza, quindi in territorio negativo. Alcuni esperti consigliano di vendere le azioni restando proprio cauti sull'esecuzione del nuovo piano industriale. Andiamo al mattone, alla giornata di Buzzi Unicem che mette a segno un rialzo del 2,89%. Sì, Buzzi Unicem faceva ancora meglio durante la prima fase della seduta, ci sono ancora molti giudizi positivi da parte degli analisti, quali sottolineano che il punto di forza del gruppo è proprio il fatto che genera il 70% del margine operativo lordo in regioni che sono a elevata crescita, quindi non l'Italia ma Stati Uniti, Messico, Russia e anche la Germania. Viene inoltre attesa per i dati del terzo trimestre che verranno pubblicati l'8 novembre, nel margine operativo lordo i ricavi sono attesi in calo, ma le speranze, le stime sono che il management fornisca un outlook, quindi delle previsioni migliori per l'ultimo trimestre dell'anno. Tra gli altri migliori titoli segnaliamo Mediobanca più 2,82%, non so se hai un'idea, Livia, a proposito di un possibile effetto scioglimento del patto di RCS sul titolo di Piazzetta Cuccia. Sì, può darsi che anche quello abbia influito, anche se vediamo che ha influito più direttamente sul titolo MRCS, esatto, che è chiuso in calo con volumi scambiati pari a oltre il 3% del capitale. Tra l'altro stamattina guadagnava molto, se non mi ricordo male, poi ha completamente cambiato direzione nelle ore successive. Sì, stamattina guadagnava, poi ha perso terreno, ha chiuso a meno 3,3%. I timori riguardano il fatto di possibili uscite dei soci dal capitale dopo appunto lo scioglimento del patto di sindacato ieri sera, annunciato ieri sera sul 60% del capitale. Senti, prima di ritornare un attimo alle big cap, quindi alle società a maggiore capitalizzazione, mi fermerei sui titoli minori perché anche oggi rivedo un più 29% sulla Roma, un più 28,5% sulla Juventus, un più 28% quasi per la Lazio, ma è l'Inter che è stato comprato. Che è stata comprata, che cosa c'entra con queste società quotate? Infatti, assolutamente sì, l'Inter tra l'altro non è quotata, ma ricordiamo che come è successo ieri, i risultati calcistici oggi non influiscono sulle tre azioni. Vediamo che la Roma dall'inizio del campionato ha guadagnato bene il 239%, la Lazio il 90%, la Juve il 58%, si scommette sulla legge sugli stadi, sui conti di bilancio. Vedremo se ci saranno anche novità sull'azionariato, che probabilmente potrebbero influenzare maggiormente l'andamento dei titoli in borsa. Allora, no, scusami, stavo distraendomi con dei messaggi di un ascoltatore che dice: la voce della signora di velata tristezza le dica che Sebastiano tornerà presto. Non so, Livia, se sei particolarmente affranta per Sebastiano, che in questi giorni non c'è, ma noi insomma siamo affezionate a lui, ma adesso non è che proprio ci strappiamo i capelli quando non c'è, anzi, se ci ascolta adesso lo salutiamo. Cerchiamo di dare i dati esatti. Il Dow Jones in questo momento non è positivo, ma sta perdendo lo 0,25%. Ma mi è sfuggito qualcosa, l'abbiamo detto noi, Livia, che era positivo il Dow Jones? No, il Dow Jones che prima trattava sulla parità, poi è salito sopra la parità, adesso cede lo 0,26%. Diciamo che i titoli cambiano direzione anche nella frazione di un secondo, anche perché diciamo che vi è il congresso in atto e le decisioni verranno minuto per minuto. Esatto. E allora, sì, come ci diceva Livia Zancaner poco fa, lo riportano anche le agenzie, fallita la proposta avanzata dai deputati repubblicani su come risolvere lo shutdown e il tetto del debito. Lo ha twittato poco fa il sito del New York Times. Forse per questo la borsa americana si sta innervosendo. Il Dow Jones è meno 0,33%. Torniamo però a Piazza Affari a monitorare i casi del giorno. Ancora qualche minuto in compagnia di Livia Zancaner di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Abbiamo già fatto il punto della situazione sui migliori titoli della giornata. Andiamo invece alle maglie nere, per così dire, anzi rosse. Prysmian meno 3,59%. Cosa è successo agli ex cavi, di ex Pirelli, non so come dirla, insomma. Sì, il titolo ha risentito dell'allarme utili, quindi del profit warning lanciato dalla concorrente francese Nexan, che a Parigi ha perso il 15% circa. Nexan ha abbassato le stime di margine operativo lordo per il 2013, ha annunciato un secondo semestre in perdita e una cura shock che include un aumento di capitale e il taglio di 468 posti di lavoro negli impianti in Europa, ed è per questo che il titolo ha perso così tanto in borsa. Andiamo a monitorare invece cosa è successo alla galassia Fiat, perché New Holland Industrial almeno 1,72%. Tra l'altro vedo male di nuovo oggi anche il settore del lusso. Un quadro complessivo, Livia, prima dei saluti. Sì, allora, come dicevi tu, i realizzi hanno colpito ancora oggi il settore del lusso, che ha chiuso quindi in forte calo dopo, ricordiamo, i guadagni delle scorse settimane. In particolare il settore è stato trainato dal meno 5% segnato da Burberry a Londra. Ricordiamo che la compagnia oggi ha pubblicato i dati sulle vendite in linea alle attese, ma ha comunicato che l'amministratore delegato lascerà l'azienda a metà 2014 per andare ad Apple. Per quanto riguarda la galassia Fiat, hanno chiuso in calo sia Nage Industrial e la controllante, l'azionista di riferimento Exor, e anche Fiat. Ricordiamo, sia Nage Industrial si è quotata il 30 settembre dopo la fusione tra Fiat Industrial e CNH Global, e dalla fusione, dalla quotazione quindi il 30 settembre scorso, ha perso il 6%, debolezza anche per la Fiat. Gli analisti vedono sempre più lontane le trattative, in particolare l'intesa tra Fiat e Veba per appunto l'acquisto della quota in mano a quest'ultima da parte del Lingotto. Grazie Livia Zancaner per essere stata con noi, ma quest'ultima te la racconto, Livia, per rispondere all'ironia con la quale ogni giorno ci tempesta un ascoltatore sull'andamento delle quotazioni del titolo Sole 24 Ore. Oggi mi prendo una rivincita perché il titolo chiude con un più 5,43%. Livia, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Saluto, anzi non lo saluto ancora, perché adesso che cosa facciamo? Andiamo a prendere il volo. 6 minuti per sintetizzare le ultime notizie su Alitalia con Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Maratona notturna per i soci di Alitalia. In nottata hanno deliberato questo aumento di capitale da massimi 300 milioni di euro. L'aumento di capitale parte domani, giusto? Sì, buonasera. Parte domani con il versamento dei primi azionisti. Dovrebbero essere i principali azionisti italiani: Banca Intesa San Paolo, Atlantia dei Benetton e la IMSI di Colaninno. Franz KLM, che è il primo azionista, non ha ancora, almeno a livello di comunicazione, sciolto tutte le riserve, anche se si capisce che dovrebbe accompagnare questa operazione. Probabilmente sta discutendo ancora le condizioni. Oggi il nuovo socio, che è entrato da un mese, le Poste, l'amministratore delegato Sarmi, è andato a Parigi, è volato a Parigi con un volo Air France, per inciso, e anche questo passo ha un po' il sapore di dove stia il bastone del comando. Certo, quindi è lui che deve recarsi a Parigi, ma non c'è nessun visitatore che invece viene a trovarci a Roma. E allora, abbiamo detto, l'operazione appunto è partita ormai formalmente. Ieri abbiamo avuto la presa di posizione di British Airways, che ha detto di affermarsi insieme ad Iberia, appunto, che la Commissione Europea intervenga per sospendere l'aiuto manifestamente illegale. Per la verità, Gianni, oggi ho scoperto che non tutti la pensano così, perché questa di Poste Italiane appunto non è una, come dire, partecipazione diretta, ma è proprio un'operazione di carattere industriale. Veramente le abbiamo sentite tutte in questi giorni. Sì, abbiamo sentito, noi non ci avevamo mai pensato che erano le Poste il socio più adatto a entrare nell'Alitalia e creare di queste strepitose sinergie. C'è persino chi ha scoperto che le compagnie, le Poste, avendo una piccola compagnia aerea che non ha mai fatto l'utile da quando erano le Poste, Mistral Air, che porta appunto i pacchi e i pellegrini, pacchi di notte, i pellegrini di giorno, potrebbe essere una piccola compagnia con 7 aeroplani addirittura l'arma vincente per messa insieme all'Italia conquistare il mondo. Quindi non si sa per quale motivo appunto noi non ci abbiamo pensato. Detto questo, a questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare? Appunto, quali sono, ti faccio la stessa domanda che ho fatto prima a Mario Platero, i prossimi step? Allora, Gesso Sessarmi a Parigi, l'aumento di capitale che parte domani, quali altri sciogli dovremo risolvere? Aspettiamo solamente Air France o potrebbe esserci qualche intervento veramente da Bruxelles che blocchi l'operazione, perché in realtà da Bruxelles non sono molto teneri su quello che sta accadendo? Ma Bruxelles ormai ha fatto capire che anche oggi intende guardare a fondo in questa operazione. Questo non significa automaticamente che verrà bocciata. Ma tra l'altro deve accadere che ci sia un'azione formale magari di una compagnia concorrente che dica: guardate, andate a vedere quello che succede in Italia, o può muoversi anche di sua spontanea volontà? Ma già ieri Bruxelles ha detto che attende una notifica, quindi vuol dire che si aspetta e sospetta che ci possa essere, come dire, un contorno, un fumo del possibile aiuto pubblico. Quindi, peraltro, mi pare che, avendo British Airways già protestato, non mancherà neanche l'eventuale ricorso, quindi se questo dovesse servire. Ma Bruxelles intende muoversi, lo può fare comunque in via autonoma, e questo non significa automaticamente che se l'operazione verrà bocciata. Certamente guarderanno a fondo. Penso che non sarà questo che rallenterà quello che faranno gli azionisti, semmai quello che gli azionisti devono fare, tra cui anche le banche, che sono in parte, hanno avuto un ruolo in questa lunga discussione ieri dell'assemblea, in questa maratona, perché c'erano valori, contrapposizioni sui valori, sui prezzi, in particolare su quanto deve valere l'Alitalia oggi prima dell'aumento. Esatto, 50 quindi, milioni dice l'Alitalia, sì, stessa. Alla fine 50 milioni, che è un valore poco più di zero, ma non è zero, quindi nella parte bassa. Era stato stimato da una banca consulente, la Credit Suisse, che il valore poteva oscillare fino a 150 milioni, chiaramente 150 sembrava un valore molto alto, troppo alto a molti. E allora anche le banche, quindi quale sarà il punto su cui si misureranno, perché non escludo che avremo nelle prossime settimane ancora magari qualche imprevisto, qualcosa che magari rimette in discussione a volte dei passaggi. Quello che sarà il piano industriale, ha detto Letta, deve essere fatto ex novo, quindi chi lo fa, perché lui ha parlato anche di nuovi vertici, però per il momento i vertici rimangono e stanno lavorando a un piano industriale. Poi quando nella seconda metà di novembre scadrà il termine per la sottoscrizione di tutto il capitale e saranno entrate anche le poste che prenderanno una quota dell'inoptato, i consiglieri d'amministrazione, ha detto l'Alitalia stamattina, si dimetteranno, esatto, e verrà nominato un nuovo CDA. A quel punto vedremo, io mi aspetto anche che, non è detto che cambi totalmente come ha chiesto Letta, può darsi che qualcuno importante rimanga anche nella nuova fase. Eccoci ritrovati in diretta e ancora buona serata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Abbiamo parlato di borsa, del tetto del debito americano, delle trattative serratissime fra repubblicani e democratici, abbiamo parlato delle novità odierne di Alitalia, adesso andiamo invece ad affrontare un altro tema di borsa, ma non possiamo solamente limitarlo nella definizione appunto a questo. E allora, liberi tutti nel patto RCS, i 12 soci del patto con il 60% del gruppo editoriale italiano hanno deciso ieri sera lo scioglimento entro fine mese a beneficio di una governance efficiente, altamente responsabile. Poi hanno espresso sostegno alla società ribadendo piena fiducia sul piano di RCS e dando un forte messaggio sul Corriere della Sera. Il patto si è detto consapevole dell'importanza della continuità, stabilità ed indipendenza nella gestione editoriale e nella conduzione della maggior testata italiana. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Abbiamo raccontato appunto in termini così anche abbastanza rapidi quello che è accaduto ieri sera, ma in realtà è tutto molto più importante rispetto, come dire, a queste due notizie di cronaca. Questo patto trentennale che blindava una quota molto importante appunto del capitale di Rizzoli Corriere della Sera si è sciolto ieri sera. Qual è il significato appunto di questa iniziativa? Diciamo che probabilmente diventerà una società un po' più normale e potenzialmente anche più contendibile. Quindi altro che salotto buono, dici tu, tra le righe, non so. Una società più normale, insomma. Quindi qual è l'obiettivo a questo punto di questa decisione di questi soci di peso? So che tre hanno detto noi ce ne vogliamo tirar fuori perché ormai questa partecipazione non è più strategica, Mediobanca, Generali e Fondiaria Assai, ma solo questo è il motivo dell'uscita di scena? Diciamo che probabilmente è stato innescato un grosso cambiamento proprio dalla decisione di Mediobanca di uscire da tutti i patti, perché Mediobanca aveva una quota importante, il 15%, e senza quella quota diciamo sarebbe stato difficile formalizzare un patto senza avere Fiat in posizione dominante, anche perché Fiat ha raddoppiato la quota ma si è portata probabilmente al massimo a cui può andare, essendo anche editore della Stampa non può avere una posizione dominante anche in un altro quotidiano, ecco. Tra l'altro, anche per spiegare un po' i termini finanziari che utilizziamo, che cosa significa costituire un patto di sindacato, Antonella? In questo caso scioglierlo, per la verità. Diciamo, avere un'unità di visione, non mi pare che gli ultimi tempi abbiano dimostrato che c'era unità di visione, se vogliamo vederla sotto profilo filosofico. E poi c'è la crisi, e la crisi c'è stata per tutti, c'è stata anche per il gruppo, e quindi diventava, come dire, un po' più impegnativo l'impegno nell'RCS quando c'erano anche dei problemi nelle aziende degli stessi azionisti. Quindi diciamo il momento in cui si è visto quanta c'era disponibilità a sostenere il gruppo è stato l'aumento di capitale. E di fatto comunque la Fiat è stata l'unica a raddoppiare la quota. Diego Della Valle, quanto contano le sue prese di posizioni sempre piuttosto colorite intorno alle vicende appunto di questo gruppo editoriale? Anche lui ha una partecipazione non indifferente. Certamente contano, però è anche vero che c'era l'opportunità con l'aumento di capitale che non era stato all'inizio facile lanciare, perché si parlava di una cifra, poi si era abbassata la cifra, non ci stavano tutti, insomma è stato un parto abbastanza travagliato. Ci sarebbe stata la possibilità di aumentare la quota da parte di Della Valle, si è limitato a sottoscrivere la sua parte. Ecco, però se lui volesse aumentare un po' il suo peso, adesso ha a disposizione le quote che Generali, Mediobanca o Fonsai metteranno appunto sul mercato, perché con l'uscita dal patto ci sarà poi un un passo ancora più, più decisivo, no? Un'uscita di scena definitiva forse era questo. In generale ormai è una quota molto piccola perché si è diluito sotto l'1%. Fondiaria, sai, bisogna vedere che intenzioni ha, ma non credo che voglia partecipare a dei giochi di schieramento, e la stessa cosa per Mediobanca. L'intento è quello di distribuire gradatamente le quote sul mercato diluendo le vendite, quindi ci sono azioni flottanti sul mercato e sono sempre acquistabili, ma non saranno queste uscite a cambiare gli schieramenti, nel senso che non mi pare ci sia l'intento di ribaltare la maggioranza. Generalmente quando ci sono questi movimenti in borsa parte la speculazione, così non è stato per RCS in questi ultimi due giorni, anche oggi meno 4,5%, come mai? No, non sei convinta, adesso ti riguardo, ricontrollo. No, l'avevo visto abbiamo mattinata meno, che saliva. Meno 4,2, no abbiamo, aspetta, le risparmio, adesso te lo ridico, meno 4,68. Ah però... Diciamo che è un po' sorprendente, anche ieri è stata una giornata bizzarra perché prima saliva e poi scendeva, oggi prima saliva e poi scendeva. Scusami, le ordinarie meno 3,30, ecco qua, ha fatto confusione con tutte le risparmie, in ogni caso segno meno pesante. Non saprei interpretarlo, francamente, è abbastanza assurdo. E vabbè, insomma, bisognerà vedere a questo punto quale scenario si apre. Allora, tu che conosci molto bene questo mondo, tutti i movimenti anche degli azionisti più o meno di peso, anche di quelli che diventeranno sempre meno di peso, appunto, che cosa potrà succedere? C'è qualche altro potenziale investitore che sta alla finestra, che magari guarda, di cui sapete qualcosa, ma che non si fa ancora vedere? Non mi pare. Non è il momento giusto. No, non mi pare. Poi comunque c'è stato un impegno, così diciamo tra gentiluomini, a non destabilizzare la società, a non destabilizzare l'azionariato. Quando firmeranno la fine del patto, verranno ribaditi quei concetti di stabilità come valore. Quindi voglio dire, le azioni poi dovrebbero essere conseguenti. Intanto RCS continua nelle sue iniziative per comunque gestire al meglio il bilancio aziendale, prosegue la sua trattativa in esclusiva con il fondo Blackstone per cedere l'immobile del gruppo nel centro di Milano, via Solferino. Anche questa insomma è una vicenda che fa molto parlare, perché molti chiaramente se la prendono anche con noi giornalisti, ma insomma se andate anche a lavorare da un'altra parte di Milano non è che sia poi tutta questa gran tragedia, però insomma un po' di significato ce l'ha anche stare lì. Ma non è impredicato il trasloco, tra l'altro, perché per quello che so l'offerta sarebbe accompagnata a un contratto d'acquisto, d'affitto ventennale, quindi non è una questione di trasloco. Forse ogni tanto bisognerebbe anche riflettere se le urgenze finanziarie non fanno anche svendere non soltanto dei simboli, ma anche dei valori patrimoniali importanti. Eccoci ritrovati in diretta, gli ultimi 10 minuti di tempo per cercare di capire cosa sta succedendo a Roma, se in qualche maniera sta trapelando qualche notizia da questo Consiglio dei Ministri che oggi vara la legge di stabilità 2014, una manovra che peraltro vale circa 12 miliardi e che poi dovrà essere trasmessa per averne il benestare a Bruxelles, deve avere l'ok della Commissione Europea. Vi ho già anticipato nella prima parte del programma quali sono i capisaldi di questa manovra: c'è la riduzione del cuneo fiscale, ma non nella misura in cui si aspetterebbero gli imprenditori italiani, c'è un allentamento del patto di stabilità da 1 miliardo, nuove risorse per la cassa integrazione in deroga, l'attesa nuova service tax, si chiamerà TRISE, sostituisce la TARES e si dividerà in TARI sui rifiuti e TASI sulle prestazioni. E qua mi fermo, peraltro vi anticipo che domani ne parleremo dalle 11 a Cuore e Denari, appunto, con Nicoletta Carboni, cercheremo di capire un po' che tipo di imposizione sarà, e poi le coperture per fronteggiare appunto queste risorse che appunto vanno a beneficio di queste fasce, come vi ho detto, lavoratori, imprese e non solo. Potrebbe aumentare la tassazione sulle rendite finanziarie al 22%, tagli alla sanità, viene esteso a tutto il 2014 il blocco dei contratti nel pubblico impiego, e chi più ne ha più ne metta. Dino Pesole, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ti faccio sentire intanto molto rapidamente cosa ha detto Letta questa mattina, era nella mia città ad Ancona, e chiaramente i giornalisti lo hanno subito punzecchiato sul tema della legge di stabilità e su quello che già stamattina c'era sui giornali. Però lui ha detto: non date retta a tutte queste indiscrezioni. Non date retta alle tante troppe indiscrezioni, tutte foriere di cattive notizie che hanno riempito i giornali di oggi. Punto. La legge di stabilità la faremo oggi pomeriggio, e oggi pomeriggio discuteremo di questo uscirà, gli italiani la conosceranno. Sentiamo anche una vocina del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni da Lussemburgo. C'è per la prima volta negli ultimi anni un forte incremento della spesa per investimento, quindi negli anni scorsi si sono fatti quadrare i conti essenzialmente tagliando gli investimenti. Allora Dino, ti interpello immediatamente su questo: dove sono queste spese per investimenti? Perché io ho fatto solamente l'elenco di tutti i sacrifici aggiuntivi che gli italiani dovranno fare qualora queste misure anticipate appunto passassero in questa formulazione, e ho anche appunto detto quali sono appunto le risorse che arriveranno, ma ho parlato di cassa integrazione, riduzione del cuneo fiscale, spese per investimenti, dove sono? Beh, intanto quello che sappiamo è che ci saranno 4 miliardi che vanno stanziati per le cosiddette spese indifferibili, e lì ce ne sono tante. Tra le spese per investimenti so che ad esempio il ministro Lupi si è molto battuto per la continuazione del progetto MOSE a Venezia, e quello lì dovrebbe essere esattamente per spese per investimenti. Ricordo che è la parte del nostro bilancio pubblico che è stata più sacrificata dalle manovre di finanza pubblica, e dunque è vero che bisogna intervenire lì. Adesso, oltre questo, dalle bozze che circolano non c'è granché, e dunque dovremo attendere il testo finale per vedere dove saranno state distribuite le risorse e soprattutto come saranno state coperte, perché è del tutto evidente che il beneficio in termini di maggiore spesa destinata a investimenti è sulla carta oggettivamente riscontrabile, perché un investimento è in grado di produrre ricchezza, occupazione. Però al tempo stesso, se quella spesa la si finanzia tagliando pesantemente da un'altra parte, bisogna vedere com'è poi il bilancio delle due operazioni. Esatto, e allora i tagli che più o meno sono sicuri sono quelli della sanità, non si conosce ancora l'ammontare di queste riduzioni perché il ministro Lorenzin alza la testa da un bel po' di giorni, da quando sono cominciate a trapelare le indiscrezioni su appunto l'ammontare del taglio possibile in questo comparto per la spesa farmaceutica, per quella ospedaliera. Adesso l'ultima cifra che circolava, riportata anche stamattina dal Sole 24 Ore, era di circa 2,6 miliardi, poi il blocco dei contratti nel pubblico impiego, ma sono tagli di qualità, Dino? Ecco, il punto è esattamente questo, infatti la domanda mi sembra molto opportuna. Io avevo capito, ma forse ho capito male, che questa legge di stabilità, la prima peraltro lo ricordo, in cui non siamo costretti a fare manovre di finanza pubblica, perché questa non è una manovra di contenimento del deficit, questa è una manovra che serve a finanziare nuove spese. Allora, se bisogna finanziare nuove spese, io avevo capito che l'ambizione di questa legge di stabilità, peraltro la prima di questo governo delle larghe intese, era quella di avviare finalmente un'operazione vera, vera di qualità della riduzione della spesa pubblica, quindi del perimetro entro il quale si articolano le spese delle pubbliche amministrazioni, e con quello che si ricava ridurre strutturalmente le tasse. L'operazione mi sembra logica e finalmente auspicabile, ma dalle bozze che circolano, io da questo punto di vista formulo l'auspicio che queste bozze nulla abbiano a che fare col testo che stasera verrà licenziato, vediamo solo al momento tagli di vecchia maniera, e cioè sì, è vero, io non nego che non ci siano che non ci sia necessità di intervenire sui grandi comparti della spesa pubblica, ma sono esattamente gli stessi comparti sui quali si è agito con le forbici e non con il bisturi nel corso delle ultime manovre, e dunque sanità, previdenza, pubblico impiego. Mi sembra che se così fosse siamo all'interno di una logica che non è certo una logica che fa immaginare che si sta investendo su un progetto, si fa un'operazione di finanza necessitata, insomma, quindi si copre con quello che si può, ma questi sono di nuovo tagli lineari. Però ti faccio sentire cosa ha detto il ministro Lorenzin, che è molto agguerrita sui tagli al suo settore. Non sono accettabili tagli sulla carne viva della sanità, che ha già dato 22 miliardi di euro negli ultimi anni, invece bisogna trovare metodi per ridurre gli sprechi e tagliare quelli che ci sono sia ancora in tutto il settore pubblico e anche nella sanità italiana. E ci aggiungiamo anche le considerazioni del presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, al margine del vertice Italia-Serbia in corso ad Ancona, dove questa mattina era presente anche il presidente del Consiglio Enrico Letta. Tagli alla sanità inaccettabili anche per questo governatore della Regione Marche. Se questo fosse vero, sicuramente sarebbe una programmazione inaccettabile nella vita delle regioni italiane, per cui ci sarebbe davvero una levata di scudi molto forte, ma io credo che dobbiamo aspettare il Consiglio dei Ministri di oggi, sapere effettivamente quale sarà il provvedimento, perché abbiamo avuto delle indicazioni che non sarà così doloroso come viene annunciato. Certo che gli enti locali sono sempre sotto pressione, Dino, torno ancora a te. Da una parte gli allentiamo il patto di stabilità, dall'altra parte però comunque altri sacrifici gliene chiediamo. Sì, certo, ma io non nego, perché se noi guardiamo gli 800 miliardi della spesa pubblica, vediamo che la metà è di competenza delle autonomie locali. Non nego che all'interno di questo mare magnum ci sia da risparmiare. Però attenzione, perché se la riduzione dei trasferimenti agli enti locali si trasforma nella necessità da parte di quest'ultimi di far fronte in altro modo alle loro occorrenze, alla fine c'è il rischio che siano costretti a ricorrere a aumenti delle addizionali, e stiamo punto da capo, cioè da un lato si riducono i trasferimenti, dall'altro si aumenta la pressione fiscale. Questo è il circolo vizioso che questa legge di stabilità deve assolutamente infrangere, perché sennò siamo nel solco delle vecchie manovre di finanza pubblica. Io mi aspetto che questo accada stasera, francamente. Paolo, un ascoltatore, Dino, ci chiede perché Bruxelles deve approvare la manovra, perché deve controllarla. Questo significa che siamo di fatto commissariati? No, questo non riguarda solo noi, riguarda tutti i paesi, perché le nuove regole della nuova governance economica europea prevedono che entro il 15 ottobre tutti i paesi membri inoltrino a Bruxelles i loro progetti di bilancio. E perché la Commissione deve vigilare? La Commissione e poi il Consiglio devono esprimere un parere, non tanto nel merito, perché questo riguarda la sovranità dei singoli Stati, ma quanto sulla congruità delle misure che vengono proposte rispetto alle raccomandazioni che Bruxelles ci ha inviato. Per dirne una, se ad esempio Bruxelles ci ha detto di intervenire sul costo del lavoro per alleggerirlo e noi magari facciamo una manovra contraria, Bruxelles può eccepire, ma non si tratta di un controllo da paese commissariato, si tratta di una procedura che riguarda tutti. Poi è ovvio che l'attenzione è, per quanto ci riguarda, abbastanza serrata, perché abbiamo il debito pubblico che sappiamo e dunque... Volevo farti un'altra domanda a proposito del tema dell'imposta di bolli in aumento, l'inasprimento della tassazione sulle rendite finanziarie. Aspetterei di vedere se, visto che c'è stato, credo, bagarre in Consiglio dei Ministri fino all'ultimo momento su questo punto, vedremo, perché qua sono tutti convinti che gli italiani, soprattutto i grandi imprenditori, i grandi patrimoni, siano pieni di bot da tassare naturalmente. Invece gli italiani hanno sempre meno debito pubblico perché progressivamente lo stanno tornando a riacquistare gli stranieri. Detto questo, invece, facciamo 3 secondi di riflessione sul cuneo fiscale. Si poteva impegnare un po' di più il governo? Io penso di sì, era la scommessa, perché dalle ultime indiscrezioni che abbiamo sembra che la manovra sul cuneo si stia riducendo a 2,5 miliardi da distribuire tra lavoratori e imprese. Se così fosse, mi sembra che la dote sul piatto sia abbastanza esigua, perché anche se poi restituita sotto forma di una tantum sulle buste paga, si dice aprile, però insomma qui stiamo parlando di briciole. Secondo me, per essere percepibile, dovrebbe essere almeno il doppio. E come lo si fa? E appunto il discorso ritorna al punto di partenza, cioè facciamo finalmente una spending review seria, e nel momento in cui Cottarelli si insedierà e riuscirà finalmente a scardinare i meccanismi della spesa pubblica, con quello che si ricava lo andiamo a ridurre strutturalmente. Non lo si può finanziare però con i tagli lineari. Grazie a Dino Pesole, che sicuramente farà notte, perché dopo il Consiglio dei Ministri immaginiamo che ci sarà la consueta conferenza stampa del governo. Dino, buon lavoro per questa serata. Grazie. Molte. Abbiamo terminato Focus Economia. Grazie a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione, anche stasera Paolo Corleoni in assistenza tecnica. Noi ritorniamo domani. Io domani, ahimè, per voi devo rifare il bis di programma. Domani alle 11 Cuore e Denari, e domani sera alle 17 Focus Economia. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.